Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, l'evoluzione delle idee, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 670 e parleremo di lupi, di lutto, nelle famiglie con animali domestici, di corride e di intelligenza animale, qualunque cosa intendiamo con questa espressione. Come ogni settimana, la ricetta della puntata è curata dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. La colonna sonora della puntata è invece firmata da Gianluca Masala. Nei giorni scorsi, nelle terribili ore seguite alla frana di Casamicciola nell'isola di Ischia, hanno fatto notizia i cani. I cani sopravvissuti alle famiglie annientate dalla marea di fango e detriti, alla distruzione delle case. Un'agenzia di stampa ha scritto: davanti ad abitazioni sventrate, nel silenzio di morte, l'ululato dei cani rimasti senza padrone somiglia al pianto di chi ha perso un amico. Si aggirano nella zona, come se cercassero qualcuno. Anche loro sono vittime della tragedia. In verità, diciamo noi, quegli ululati non somigliavano, ma erano il pianto di chi ha perso un amico. E non è che si aggiravano come se cercassero qualcuno. Stavano davvero cercando qualcuno, quei cani. In questo caso, non crediamo di tradire il principio di animalità e di peccare di antropomorfizzazione degli animali e del loro comportamento. Bensì crediamo di descrivere una condizione ben conosciuta ed esplorata, il rapporto fra gli animali domestici, e in particolare i cani, con i loro compagni umani, normalmente definiti padroni, come in quell'agenzia di stampa, secondo una prassi di oggettificazione che tradisce il senso profondo della relazione che ci unisce a questi animali, la cui origine è in effetti un processo di addomesticazione, anche se ormai si comincia a parlare in ambito etologico ed antropologico di coevoluzione. Una notizia ci spinge a valutare questa relazione anche dall'altro lato della medaglia. Il riferimento è a uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università del Rhode Island negli Stati Uniti, d'intesa con l'Associazione per la perdita e il lutto degli animali domestici. È un argomento, questo, che non ha un reale riconoscimento sociale e tantomeno istituzionale, per quanto sappiamo che possa incidere pesantemente sulla vita personale e familiare di molti individui. La società, sostengono i ricercatori, oggi non riconosce la necessità di un supporto psicologico per chi conosce simili perdite, al pari di altre tipologie di perdite come il suicidio o l'aborto. Quando le relazioni non sono riconosciute dalla collettività, ha detto Colleen Roland, una delle coordinatrici della ricerca, è probabile che gli individui sperimentino un dolore privato non risolto e che affrontarlo diventi quindi molto complicato. La nostra analisi continua evidenzia l'importanza di poter contare su uno spazio sicuro per discutere le implicazioni della morte di un animale domestico. Un ambiente di supporto, di sostegno sociale e psicologico potrebbe facilitare l'elaborazione del lutto e della perdita. A queste argomentazioni si potrebbe obiettare, come dicevamo, che di questo passo si corre il rischio di antropomorfizzare l'animale, di piegare la sua natura a nostre esigenze e sensibilità. Oppure si potrebbe sostenere che tanta attenzione per gli animali, come dicono alcuni, è un segno di decadenza personale e collettiva. Il caso è aperto ed è in discussione. A noi sembra che la condizione degli animali domestici sia quella di membri, sia pure non conformi, delle rispettive famiglie e che quindi certe attenzioni e certe valutazioni, come quella esposta nella ricerca sul lutto umano per la morte di animali, abbiano un fondamento. è un tema evidentemente degno di riflessione e di approfondimento. Come spesso abbiamo detto e documentato nel corso delle nostre puntate, i lupi e altri animali selvatici, come per esempio gli orsi, sono tornati al centro dell'attenzione pubblica e a essere oggetto di scelte politiche da parte di governi e amministrazioni locali, in un modo opposto a quanto avvenuto alcuni decenni fa, quando l'obiettivo, l'interesse pubblico, era favorire il loro insediamento, a volte il reinsediamento nelle aree naturali a loro congeniali. Ora lupi, orsi e altri selvatici sono idealmente sotto assedio. Da presenza desiderabile e segnale di vitalità ambientale di un distretto, di una provincia, di un'intera area geografica, sono diventati un problema, una minaccia, spesso un parafulmine. Non si contano gli appelli di allevatori, agricoltori, cacciatori, gruppi politici volti a limitare la loro presenza in natura, ossia la loro decimazione. Si tratta quasi sempre di minacce in realtà inesistenti e di danni, quando ci sono, agli allevamenti e all'agricoltura, che si possono e si devono affrontare con una pluralità di strumenti, da risarcimenti per chi subisce danni alla prevenzione, con opportuni strumenti di protezione, senza adottare misure cruente. E invece la via preferita è normalmente proprio questa, l'abbattimento fisico, la decimazione, l'intervento delle doppiette. Perché è avvenuta questa mutazione? Perché questo sentimento si è affermato? Le risposte sono da cercare in più direzioni, dalla crisi degli allevatori e degli agricoltori, alla pretesa di condurre tali attività facendo finta che gli animali selvatici non esistano. Ma gioca sicuramente un ruolo anche una certa tendenza a lanciare un allarme, indicare un responsabile di tutti i guai e catalizzare su di questo le maledizioni, chiamiamole così. In breve, la politica del capro espiatorio, un'espressione che non a caso evoca il sacrificio animale, per definizione un animale innocente per ciò che si vuole o si pensa di punire. La novità, parlando dei lupi, è che il Parlamento europeo è tornato all'attacco e ha approvato una risoluzione con la quale si chiede alla Commissione, cioè al governo dell'Unione europea, di sviluppare senza indugio una procedura di valutazione che consenta di modificare lo stato di protezione delle popolazioni di lupo in determinate regioni in modo da declassare nell'ambito della direttiva Habitat la protezione da rigorosa a semplice protezione. Un passaggio che metterebbe a rischio la vita di migliaia di lupi. Sarebbe stata la premessa di un via libera sostanziale alle uccisioni, chiamate pudicamente nel linguaggio burocratico politiche di contenimento. Diciamo sarebbe stata, perché pochi giorni dopo il grave pronunciamento politico del Parlamento europeo, la cosiddetta Convenzione di Berna, cioè la Convenzione sulla conservazione della vita selvatica degli habitat naturali, istituita nel 1979 e della quale fanno parte 49 paesi europei, ha respinto una formale analoga richiesta di declassamento presentata dalla Svizzera. La bocciatura è stata netta, solo 6 voti a favore su 30, e quindi il tentativo di effrazione della normativa di protezione, caldeggiato dal voto del Parlamento europeo, è stato al momento sventato. Sappiamo tuttavia che la lotta è ancora aperta e che ci saranno altri tentativi di violare il sistema normativo che tutela il lupo. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going now. Stop. Hey, what's that sound? È aperto da tanto tempo un dibattito, a volte, diciamo la verità, anche un po' stucchevole, sull'intelligenza di questo o quell'animale. Si tratta per lo più della ricerca nel comportamento degli animali non umani di elementi di somiglianza con l'intelligenza, la prontezza, le abilità tipiche degli umani. Normalmente, quanto più certi comportamenti osservati in altre specie sono vicini a quelli umani, tanto più si parlerà con stupore e compiacimento di intelligenza di questo o quell'animale. È un dibattito spesso fuorviante, perché ogni animale ha in realtà tutta l'intelligenza che gli serve e la dimostra ogni giorno. Quando si parla di selvatici, nell'impegno per la propria sopravvivenza, oppure quando si tratta di animali torturati e segregati, nella testimonianza di dolore, sofferenza e nei tentativi di fuga che in chiunque può afferrare visitando un allevamento o un altro luogo di segregazione. Alla fine, forse gli studi sull'intelligenza animale andrebbero letti a rovescio, come documento sullo stadio di avanzamento della cultura umana nella relazione con gli altri animali. Quanto maggiori saranno la ricerca di similitudine e lo stupore di fronte ai comportamenti altrui, tanto minore sarà la coscienza fra gli umani, o perlomeno fra gli studiosi che conducono le ricerche, della propria condizione di animale umano. In questa chiave, lasciando a chi ascolta ogni valutazione, vogliamo citare due ricerche recenti che hanno fatto notizia nei sistemi comunicativi di divulgazione. Una riguarda un animale molto citato negli studi sull'intelligenza animale, il polpo, assurto qualche anno fa, durante un campionato mondiale di calcio, addirittura al rango di indovino, in grado di prevedere e comunicare i risultati di certe partite. Stavolta si tratta di una ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances e guidata dal centro tedesco Max Delbruck, secondo la quale sarebbe stata finalmente trovata la chiave della supposta grande intelligenza di polpi, calamari e seppie. Una caratteristica, si legge nelle agenzie di stampa che hanno divulgato i contenuti dello studio, che hanno incredibilmente in comune con gli esseri umani. Si tratta del vasto repertorio osservato all'interno del tessuto nervoso di piccole molecole di RNA, il parente a singola elica del DNA, implicato in vari ruoli biologici di codifica, decodifica, regolazione ed espressione dei geni. La scoperta, dicono i ricercatori, rende questi molluschi un'eccezione fra gli animali invertebrati, che possono ricordare informazioni, riconoscere le persone e forse perfino sognare. Così i ricercatori tedeschi. L'altra notizia riguarda due maschi di gelada, una grossa scimmia tipica dell'Etiopia, che sono stati ripresi da prigionieri in uno zoo mentre disegnavano utilizzando delle pietre colorate. È la prima volta, ha spiegato Elisabetta Palagi, docente del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, che ha recentemente firmato uno studio internazionale pubblicato sul Journal of Ethology, che viene documentata la scelta spontanea ad usare pietre colorate in base alla consistenza e al colore, utili a due esemplari per tracciare segni sulle rocce. Bernd e Baco, due maschi della colonia di gelada rinchiusa nello zoo di Rhein, in Germania, all'interno del loro reparto hanno trovato alcuni scarti di materiale edile. Mentre Band ha spiegato Palagio ha sviluppato una tecnica che consiste nello strofinare in modo ripetuto una pietra su una superficie orizzontale o verticale, la tecnica di Baco è apparsa più complessa. Dopo aver selezionato la pietra, il cui colore contrastava con quello della superficie, Baco la strofinava in modo vigoroso producendo polvere e frammenti colorati. Dopodiché Baco ha afferrato i piccoli frammenti fra pollice e indice e ha tracciato dei segni sulla superficie. Tutto ciò, secondo gli studiosi, è segno che la creatività e l'innovazione, attività ritenute, chissà perché, quasi esclusivamente umane, possono invece avere radici antiche nell'evoluzione. Guarda un po', non siamo gli unici animali intelligenti che abitano il pianeta. Negli ultimi mesi in Francia vi è stata una forte effervescenza sociale, come tipico di quel paese nei momenti di crisi e di intensa lotta politica, con grandi manifestazioni di piazza contro il carovita, contro la riforma delle pensioni progettata dal governo centrista e anche contro, ma anche pro, le corride. Sì, le corride, perché nel sud della Francia questa brutta tradizione è radicata quanto in molte aree della Spagna. E il movimento animalista, che oltre Alpe ha una buona capacità di mobilitazione, si è battuto nei mesi scorsi per avere una legge che metta al bando questa pratica. Le mobilitazioni hanno fatto discutere, ve ne sono state anche a favore delle corride, e si è arrivati a un primo confronto parlamentare. Se non che, ecco la notizia che vogliamo riferire, la proposta di legge depositata dal deputato ecologista di sinistra Améric Caron, che chiedeva di abolire sia la corrida, sia i combattimenti fra galli, è stata ritirata prima della discussione, per l'eccessiva mole di emendamenti proposti, una mole che avrebbe di fatto impedito e soffocato il dibattito. Si tratta dunque di un rinvio tecnico dell'esame parlamentare, ma il caso politico, grazie alle manifestazioni delle settimane e dei mesi passati, è ormai incardinato. Come riferisce la Zampa.it, il sito di informazione sugli animali del quotidiano La Stampa, il codice penale francese proibisce abusi, crudeltà e abbandono di animali. La corrida pertanto sarebbe proibita, ma non su tutto il territorio nazionale, perché la stessa legge la consente dove vi sia una tradizione locale ininterrotta, dunque nelle regioni della Nuova Aquitania, della Provenza Alpi Costa Azzurra e dell'Occitania. Lo stesso discorso vale per i combattimenti fra galli, che rimangono legali in un paio di dipartimenti, il Nord e il Pas-de-Calais, e in tre regioni e dipartimenti d'oltremare, la Réunion, Martinica e Guadalupe. Ogni anno vengono organizzati circa 200 corride e 9.000 combattimenti fra galli. Per un giro d'affari ecco il punto delicato di decine di milioni di euro. Il numero di tori uccisi annualmente nelle corride francesi oscilla fra 800 e 1.000. Il dibattito, dicevamo, è acceso e il paese sembra spaccato in maniera quasi speculare fra il livello nazionale e quello locale, secondo i sondaggi e i rilevamenti condotti nelle ultime settimane. A livello nazionale, cioè, il 74% della popolazione sarebbe a favore della messa al bando delle corride. La percentuale rilevata 15 anni fa era del 50%. Nelle località in cui la corrida è invece ancora praticata, la percentuale di favorevoli e contrari è ribaltata. Il 71% vuole mantenerla. Da quando si è cominciato a parlare della proposta di legge per la messa al bando, nelle città che ospitano le corride, città come Nîmes, Arles, Béziers, nel sud della Francia, vi sono state numerose manifestazioni, sia a favore della legge, sia contro la legge. È un dibattito e un percorso normativo, questo d'Oltralpe, che merita d'essere seguito. I be a mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, light on your door to show that you're home. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro Se vuoi essere sano cucina vegano, edito da Newton Compton, un libro che vi consigliamo anche come possibile regalo di Natale, di proporci una ricetta che prenda ispirazione dai polpi. Sentiamo che cosa si è inventato. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Per la puntata di oggi abbiamo letteralmente spolpato una ricetta tipica della cucina campana. No, ma non fraintendete, spolpato nel senso che dagli ingredienti abbiamo tolto il polpo. Gli ingredienti per 4 persone per la polpa di grano alla luciana sono: per la polpa di grano 150 g di glutine di frumento o instant seitan, 75 g di farina di ceci, 225 ml di brodo vegetale, mezzo foglio di alga nori, un cucchiaio di olio extravergine, una barbabietola rossa cotta e del sale. Mentre per la salsa 3 spicchi di aglio, 500 g di pomodorini, 50 g di capperi, 50 g di olive di Gaeta, olio extravergine di oliva, peperoncino, prezzemolo e sale. Fate ammorbidire l'alga nori nel brodo vegetale, quindi frullate bene il tutto col mixer. Mescolate il glutine di grano e la farina di legumi. Aggiungete il brodo vegetale e l'olio extravergine. Lavorate aggiustando di sale fino ad ottenere un impasto ben amalgamato, quindi fate riposare 5 minuti. A parte portate all'ebollizione una pentola di acqua leggermente salata. Con le mani inumidite date una forma cilindrica all'impasto e sistemate al centro di un foglio di carta forno. Arrotolate e legate con dello spago da cucina. Cuocete a fuoco basso per 40 minuti. Trascorso il tempo di cottura, liberate l'impasto dalla carta forno e lasciatelo raffreddare nell'acqua di cottura. Una volta intiepidito, scolate e ricopritelo di fette di barbabietole rosse tagliate sottili. Avvolgete il tutto nella pellicola e conservate in frigorifero. Nel frattempo lavate i pomodorini, tagliateli a metà e lasciateli scolare. Tritate l'aglio finemente e fate soffriggere in un tegame con 2 cucchiai di olio e il peperoncino. Unite l'acqua dei pomodorini, lasciate ritirare qualche minuto e aggiungete i pomodori. Lasciate cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti aggiustando di sale. Recuperate la polpa di grano, liberatela dall'involucro e togliete le fette di barbabietola, quindi tagliate a tocchetti. Versate nel tegame con la salsa e aggiungete anche le olive, i capperi e il prezzemolo tritato finemente. Fate cuocere per circa 15 minuti, quindi servite in un piatto fondo con abbondante salsa, accompagnando, se si desidera, con fette di pane tostato. Chiudiamo segnalando una iniziativa di raccolta firme in corso a livello europeo. Si tratta dell'iniziativa End the Slaughter Age, mettere fine all'era dell'uccisione di animali, che ha l'obiettivo di impegnare la Commissione europea, grazie a 1 milione di firme da raccogliere in un anno entro il giugno del 2023, a escludere l'allevamento dalle attività ammissibili ai sussidi agricoli a favore dell'inclusione di alternative etiche ed ecologiche e a incentivare la produzione e la vendita di prodotti a base vegetale e di quelli realizzati con l'agricoltura cellulare, come la carne coltivata. L'iniziativa chiede appunto di attivare strumenti diretti di intervento economico da parte dell'Unione Europea per disincentivare lo sfruttamento degli animali, che sono riconosciuti come esseri senzienti proprio dal Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, e di incentivare una produzione e un consumo di cibo ottenuto con metodi non crudeli, con grandi benefici per una società più giusta e per salvaguardare l'ambiente e la salute di tutti. È possibile sottoscrivere l'iniziativa firmando online la petizione all'indirizzo web, che può essere raggiunto ricercando le parole End the Slaughter Age o attraverso siti di organizzazioni animaliste come love.it. يا راكب نحو المدينة قاصدا يا راكب نحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي محمد صلى الله عليه. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Anna Granata, Valentina Baronti, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Gianluca Masara, Gabriele Palloni, Francesco Pagnier e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.